Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È l'agosto del 1860. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento, puntata speciale. Oggi continuiamo a seguire con il nostro Paolo Piacenza l'avanzata di Garibaldi nel sud Italia. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Lo sbarco sul continente è avvenuto non a Reggio, dove lo aspettavano i borbonici, ma a Melito Porto Salvo, e questa volta i garibaldini erano non i 1088 di Marsala ma oltre 20.000. Sono ormai un esercito e comunque sono sempre meglio armati. Per di più ve lo posso testimoniare, almeno qui in Calabria l'esercito di Franceschiello si sta sfaldando. A Soveria Mannelli è l'ultima notizia che ci è giunta: un intero corpo di 10.000 uomini al comando del generale Chio si è arreso senza combattere di fronte a una sparuta colonna garibaldina. Ma già prima dello sbarco i segnali di crisi del regno si sono susseguiti. Il 18 agosto a Potenza un moto insurrezionale lucano ha proclamato la decadenza dei Borboni e l'Unità d'Italia. Ad Altamura in Puglia è successo lo stesso tre giorni dopo. Per Garibaldi si profila quindi una conquista più facile del previsto. A quanto siamo riusciti a sapere, Paolo Caura a Torino non vede la cosa di buon occhio, è vero? È così, per quanto siamo venuti a sapere, il conte ha cercato di ritardare o evitare lo sbarco di Garibaldi sul continente per tentare un colpo di stato liberale a Napoli e evitare al generale di fare il liberatore. Ha anche chiesto al re di scrivergli una lettera per fermarlo. Vittorio Emanuele l'ha scritta, ma segretamente ha anche suggerito una elegante risposta negativa allo stesso Garibaldi, che ha seguito il consiglio ed è partito. Tanto più che a Napoli il tentato colpo di stato liberale è fallito. Abbiamo però anche saputo che questa avventura garibaldina ha qualche lato oscuro. Così pare. Uno che ci è stato riferito da più fonti è relativo ai fatti di Bronte sulle pendici dell'Etna. Qui c'è stato un moto popolare contro la nobiltà latifondista. Sono state appiccate le fiamme a decine di case, al teatro, all'archivio comunale. Poi c'è stata una furiosa caccia all'uomo che ha provocato 16 morti fra nobili, ufficiali e civili. Da Palermo si è inviato un battaglione di garibaldini al comando di Nino Bixio per fare giustizia, ma il tribunale ha giudicato troppo sommariamente e probabilmente non i veri colpevoli, che erano già fuggiti. In 4 ore sono state processate 150 persone, in 5 sono state condannate e fucilate il giorno dopo. Tra loro il sindaco Nicola Lombardo, innocente, si è rifiutato di fuggire per difendere il proprio onore. Un altro fucilato è stato Nunzio Ciraldo Fraiunco, lo scemo del villaggio. Incapace di intendere e di volere, è stato ammazzato da Bixio in persona dopo che i soldati lo avevano mancato di proposito. La sua colpa è stata di aver suonato la trombetta nel paese annunciando il giorno del giudizio. Insomma, per Bixio davvero una brutta pagina. E proprio da Bronte abbiamo ricevuto l'audio della fucilazione della quale ci parlavi. Ascoltiamo questi momenti terribili. La Madonna del Rosario mi fece la grazia! Ora me la venite a fare voi! Ora me la venite a fare voi! La grazia! Facetemi la grazia! Ora me la venite a fare voi! Ed è tutto, andate sul nostro sito a scaricare il nostro foglio quotidiano, visitate la pagina Facebook, lasciateci un commento, fatelo a gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.